il vicepresidente Pittella i progetti e le soluzioni che l'Unione Europea ha già finanziato. Roberto, ti chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo immediatamente da te. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con Roberto Carpano, ideatore e direttore di europabook.eu, questo portale che raccoglie nel database già 8.000 organizzazioni che hanno partecipato ai programmi europei e 10.000 progetti finanziati, proprio perché questi progetti possono diventare la strada, possono diventare il punto di riferimento per evitare errori, per evitare doppioni, quindi lo storico come qualcosa su cui investire per ottimizzare le esperienze. E Roberto, è difficile accedere a questi finanziamenti, nel senso che almeno apparentemente sembra sempre di entrare in un ginepraio burocratico. Voi date anche nel portale, si troveranno anche proprio dritte operative per non addetti ai lavori? Ma dunque, diciamo che evidentemente è un lavoro scrivere progetti. Noi diamo sia dritte operative, sia facciamo un pochettino quella che è una raccolta degli strumenti principali che permettono quella che è una partecipazione sociale, sia mettiamo anche a disposizione la rete, quelli che sono i nostri esperti di Europa Book, che sono tutti quanti professionisti che hanno un'esperienza già nel settore. Comunque io penso che è importante anche un pochettino parametrarsi con come si comportano gli altri paesi. Quello che io vedo dal nostro punto di vista è che i nuovi paesi membri aggrediscono, se mi senti il termine, il tema finanziamenti europei con molta determinazione, con molta efficacia. Quindi, nonostante il fatto che siano arrivati da poco, hanno sicuramente quella che è una tecnica, ci sono moltissimi giovani che investono nel tema formazione, di modo che possono sviluppare quelle che sono delle skills e delle competenze specifiche. Roberto, grazie davvero, siamo contenti di aver battezzato un po' questo portale. Da domani, appunto da lunedì ci sarà il lancio ufficiale, ma sicuramente ci ritroveremo qui all'Altra Europa per approfondire meglio e magari proprio entrare anche dentro all'operatività dei singoli progetti per dare consigli e le coordinate giuste per accedere a questi finanziamenti. Complimenti a te e a tutto il tuo staff e buon lavoro. Senti Federico, così grazie, quindi per chi è interessato domani alla Commissione Europea Spazio Europa, il portale viene inaugurato dal commissario Tajani che apre i lavori. Grazie. Grazie a te, europabook.eu. Ciao. Europostit. Umorismo e creatività. L'Europa premia la vignetta migliore. La rappresentanza in Italia della Commissione Europea, in collaborazione con il sito web Press Europe e la rivista Internazionale, propone la seconda edizione di Una vignetta per l'Europa, il concorso per la migliore vignetta politica sull'Unione Europea. Il concorso ha due obiettivi: sensibilizzare i vignettisti sui temi europei e stimolare l'interesse dei cittadini per la vita politica comunitaria. Quale migliore strumento dell'umorismo? Aguzzate l'ingegno e le matite, dunque. La cerimonia di premiazione dei vincitori di questa seconda edizione del concorso si svolgerà domenica 7 ottobre 2012 durante il Festival Internazionale di Ferrara. Il primo classificato riceverà 2.500 euro, il secondo 1.500 e il terzo 1.000. Affrettatevi, c'è tempo fino al 22 giugno 2012. Per maggiori informazioni cercate Una vignetta per l'Europa su ec.europa.eu. جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدلي في الأفق فقلت نورتني يا خير زائرة. Mi chiamo Nyang. Sono il griot della stazione. Anzi, sono l'unico griot di una stazione al mondo. Mi piace inventare alberi genealogici alle persone di passaggio. Salve, sono Iqbal Masih, vengo dal Pakistan.